Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e siamo in diretta, come saranno anche altri programmi di Radio 24, anche domani dalla Fiera di Milano City, quindi non quella di Ropero ma la Fiera di Milano, dove si sta tenendo il forum agenti.it, agenti321. Ringrazio anche il pubblico presente, ma soprattutto parleremo oggi e domani in altri programmi delle opportunità che vengono offerte nel mondo degli agenti di commercio, come si chiamavano una volta. L'anno scorso facemmo una diretta analoga, ci trovavamo a Bari, a Napoli, dove si teneva un forum analogo proprio per incrociare la domanda di forza lavoro, nel caso specifico di agenti, con l'offerta. Parleremo di domanda e offerta anche perché oggi è uscito il rapporto Union Camere per quello che riguarda la domanda delle imprese e quanta parte di questa domanda non venga soddisfatta. So che può sembrare strano, ma ne parliamo ogni anno, pur con una disoccupazione oltre il 12%, un profilo su 10 cercato dalle aziende non viene trovato. Oltre 721.000 le assunzioni previste quest'anno dalle aziende, 76.000 i profili introvabili, quindi le persone introvabili. Non sono solo giovani, chiaramente, ma anche e soprattutto giovani. La cosa interessante, ne parleremo fra poco, è che mentre negli anni scorsi si cercavano molti cuochi e pasticceri, non lo dico come battuta, era proprio una delle professioni più vacanti nelle richieste delle imprese, è successo un fenomeno strano che ha a che fare anche con il fenomeno mediatico, ossia a forza di Master Chef, prova del cuoco e quant'altro, le scuole alberghiere registrano il tutto esaurito, e non deve essere un caso. Non c'è più un problema quest'anno di pasticceri e cuochi, ma c'è un problema molto più grave di esperti, di giovani esperti in nuove tecnologie e soprattutto giovani che abbiano maturato un minimo di esperienza nelle imprese attraverso degli stage. E qui c'è anche un botta e risposta tra Confindustria e il governo, perché da questo punto di vista l'apprendistato sta funzionando ma con molta molta vischiosità. L'apprendistato è quello che dovrebbe permettere ai giovani, a maggior ragione se non vanno poi a proseguire gli studi dopo la scuola superiore, di avere un minimo di esperienza nel curriculum da portare quando si va nell'impresa. Comunque parleremo di questo, parleremo anche dell'accordo, finalmente si è trovato l'accordo sul latte fissato a 36 centesimi al litro. Ce ne siamo occupati fin da quando iniziarono le proteste degli allevatori italiani contro soprattutto il gruppo francese Lactalis per i prezzi imposti ai produttori, 33 centesimi che secondo la maggior parte degli allevatori non permettevano nemmeno di stare dentro i costi di produzione, visto che i costi viaggiano sui 37-36 centesimi al litro, sale di 3 centesimi, più c'è un plafond di 25 milioni di euro europei che il Ministero all'Agricoltura, alle politiche agricole, si è impegnato a dare agli allevatori italiani. In questo modo l'impatto sarà di un altro centesimo in più nella vendita del latte al litro, chiaramente dal punto di vista degli allevatori. E poi di nuovo il tema internazionale, quindi Turchia e Russia, sale la tensione, nel senso che non è mai diminuita, però in realtà Putin oggi ha criticato, come ricordavano i nostri GR24, le inspiegabili pugnalate alla schiena da coloro che ritenevamo partner nella lotta al terrorismo. Finora non abbiamo sentito scuse né proposte di risarcire i danni e di punire i responsabili. Immediata la replica del presidente turco Erdogan, che ha detto: la Russia non combatte davvero l'ISIS in Siria, io non ho niente per cui chiedere scusa e non chiederò scusa. Oggi su Sole 24 Ore presenta un'analisi che riprenderemo di quanto vale l'interscambio commerciale tra Russia e Turchia, circa 30 miliardi di dollari l'anno. A mio avviso è ancora presto per ragionare se questa tensione alle stelle avrà delle ricadute anche per il nostro export nei confronti della Turchia. Obiettivamente aspettiamo e speriamo di non dovercene mai occupare. La borsa, dicevo, più 0,86% Milano, più 1,25% Francoforte, più 1% Parigi, più 0,80 Londra, invariata invece Wall Street sul Dow Jones. I titoli: ST Microelectronics più 5,35%, CNH più 5, Buzzi Unicem più 3,30, Tenaris più 2,60 come Moncler, il 2,5% lo guadagna Fiat Chrysler, il 2% Atlantia e anche Saipem, l'1,80 Mediaset ed Exor, l'1,70 il rialzo di Unipol e Ferragamo. Telecom Italia e Prismian guadagnano l'1,5%. Chi perde? Pochi titoli: Campari meno 1,30, Finmeccanica meno 0,90, Monte dei Paschi meno 0,40%, euro su dollaro a quota 1,06,1, quindi sempre sui minimi, vicino a quota 1,05. Ultima cifra, come sempre, quella per i vostri messaggi su WhatsApp e i messaggi SMS, oltre che il sito di Radio 24 dove c'è la pagina di Focus Economia. Il numero, come sempre, 349-238-6666. Partiamo come sempre dall'economia internazionale, con la borsa americana chiusa oggi per il Thanksgiving. Le borse ballano un po' da sole, ma soprattutto per quello che ha a che fare con le materie prime. Oggi c'è un calo sia del petrolio a $42,7, sia per quello che riguarda l'oro, che resta ai minimi da 5 anni a questa parte. I mercati attendono infatti le mosse della Federal Reserve e manca obiettivamente anche una tensione, per fortuna manca, per quello che riguarda le relazioni internazionali, mi riferisco al Medio Oriente. Domani mi chiedete se la borsa americana sarà chiusa anche domani, se ben ricordo, dovrebbe lavorare a mezza giornata. Oggi è il Thanksgiving, che è il famoso giorno del ringraziamento, quello che il tacchino non cerca mai di anticipare. Allora, all'interno del rapporto, l'ultimo rapporto della World Meteorological Organization, in cui si segnala che il 2015 farà segnare il record per la temperatura elevata del globo, ma sarà anche l'intero quinquennio 2011-2015 ad essere da record come temperatura, la FAO, in un rapporto che è un rapporto preparatorio della conferenza ONU che si terrà a Parigi, inizierà dal 30 di novembre, noi seguiremo con gli inviati di Radio 24 con aggiornamenti speciali e reportage. La FAO stima che i danni tra il 2003 e il 2013 causati dai fenomeni naturali, inclusi quelli legati al clima, siano quasi duplicati rispetto agli anni 80. Il danno economico totale raggiunge $1,5 trilioni, quindi $1,500 miliardi. E tra l'altro anche le emissioni globali di CO2, di anidride carbonica, sono stabili, ma con un leggero aumento, lo 0,5%. Chi si sta comportando molto bene è l'Unione Europea, che ha visto un calo delle emissioni di anidride carbonica del 5,5%, grazie anche a politiche proattive. I maggiori inquinatori del pianeta restano Cina e Stati Uniti. Ora, la Cina ha sicuramente un problema anche di gestire questo sviluppo prorompente. Meno accettabile, se posso permettermi, il caso degli Stati Uniti, che sono un'economia bella avanzata, un'economia che non può usare la giustificazione della Cina di dire, insomma, un'economia in trasformazione, in transizione, un'economia già ricca e che, insomma, non vuole impegnarsi seriamente, lo possiamo dire, nella riduzione delle emissioni, mentre l'Europa su questo, ripeto, è l'area geografica più virtuosa. Poi c'è il boom dell'India, come se ci mancasse, perché l'India rappresenta da sola il 6,5% di tutte le emissioni mondiali, il 30% se lo prendono la Cina, il 15% gli Stati Uniti, il 10% l'Unione Europea. temi di oggi ci occuperemo anche della unione bancaria, del bail-in. Sono arrivate molte richieste di quello che è stato il trattamento che secondo molti ha avuto, un trattamento di favore, Deutsche Bank dalla Germania, e l'incapacità anche dell'Italia di aver alzato un po' la voce. Faccio notare che lo stesso economista Masciandaro ha detto che noi siamo stati usati come cavie nel caso della ristrutturazione delle casse di risparmio, appunto, di Ferrara e poi Etruria e poi Genova e anche Marche, una cavia di quello che capiterà dal 1 gennaio. Resta sullo sfondo, e lo dico non per attaccare la Germania, un trattamento di assoluto favore avuto, o meglio di soldi pubblici che permisero di salvare Deutsche Bank, ma soprattutto il ragionamento di come vengono fatti gli stress test, visto che a noi risulta che ancora Deutsche Bank sia una banca con tantissimi derivati e collaterali a garanzia, quindi ancora molto rischioso sui derivati. Decidiamo, cerchiamo di capire se nel valutare la solidità delle banche, questo elemento, che è quello che causò la crisi del 2008, è un elemento visto in maniera negativa, oppure sono visti in maniera negativa solo i prestiti alle piccole e medie imprese, così capiamo che anche stavolta abbiamo seguito l'impostazione tedesca. E ripeto, se fosse un'impostazione in cui si è obiettivamente neutrali e oggettivi, poco da obiettare, ma quando salvi la tua banca principale, tra l'altro banca che è entrata a pieno titolo nello scandalo Libor, e quindi anche nell'aver truccato i valori di riferimento, e poi fai la voce grossa, la faccia feroce con le altre banche europee, questo obiettivamente è meno accettabile. Se salvi con soldi pubblici la tua banca che sarà riempita di roba tossica, beh, almeno abbi la correttezza di non dare lezioni agli altri quando devi applicare l'unione bancaria o le nuove regole del bail-in. Lo dico anche perché l'accusa che valsa oggi una multa da 72 milioni di sterline al gigante bancario britannico Barclays, che non rientra negli stress test, però è quella di avere fatto controlli all'acqua di rosa su clienti super ricchi e potenti, e l'autorità di controllo della City infatti sostiene che Barclays tra 2011 e 2012 chiuse praticamente tutti e due gli occhi nelle procedure preliminari all'apertura di conti per almeno 2 miliardi di sterline da parte di clienti molto facoltosi e politicamente a rischio. Ultima notizia riguarda l'asta, riguarda l'Italia, l'asta dei titoli di Stato. Il bot a 6 mesi è negativo, come già full bot a un anno, ma il Tesoro ha assegnato tutti i 5 miliardi e mezzo di bot a 6 mesi, il rendimento di meno 0,112, ancora più negativo del meno 0,055 che era l'ultima asta del bot a 6 mesi. La domanda è alta, pari a 1,8 volte l'offerta. E i rendimenti anche dei nostri BTP, dei Bund tedeschi e dei titoli austriaci e olandesi a 5 anni hanno avuto nuovi rendimenti minimi da record. Il Bund tedesco a 5 anni rende meno 0,143%, quello italiano è a un più 0,32%. E tutto questo perché si attende nuove misure anche dalla Banca Centrale Europea giovedì prossimo. Insomma, quello che è chiaro è che chi presta soldi anche all'Italia, non solo alla Germania, per averli indietro dopo 6 mesi o un anno, accetta di perderci, e chi li presta 5 anni o 10 anni accetta un rendimento praticamente pari a zero, perché lo 0,32% lordo significa nulla sul fronte, diciamo, del rendimento netto. Allora, una buona notizia arriva dal Centro Studi Confindustria, che stima una produzione industriale a ottobre in aumento dello 0,4% dopo la frenata di settembre che abbiamo raccontato ieri, e anche un aumento degli ordinativi industriali. L'Istat oggi invece diffonde i dati che riguardano nord e sud del paese e segnala come ormai il sud, nell'aumentare il divario col nord complice la crisi, abbia un reddito pro capite pari alla metà. Quasi. Al sud il reddito pro capite per abitante è 17.600 euro contro i 32.500 euro del nord-ovest, che è la parte più ricca del paese, Nel nord-est il PIL pro capite è a 31.400 euro, nel centro a 29.400. E tra l'altro anche il maggiore calo del PIL dei consumi e dei disoccupati si registra al sud. Pensate che i consumi hanno fatto meno 0,5% al sud, più 0,8% al centro e al nord-ovest più 0,6% nel nord-est. Questo nel 2014. Infine anche sui risparmi la situazione è obiettivamente molto difficile. La spesa per consumi è di 18.900 euro al nord, di 12.600 al sud, al mezzogiorno è più bassa di un terzo. Mi segnalate, no, c'era la vicenda Commerzbank, no, c'è Commerzbank ma c'è anche Deutsche Bank, attenzione. E comunque c'è il tema di del fatto che è inaccettabile, a mio avviso, che un paese prima sistemi le sue banche messe male con soldi pubblici, poi dia lezione agli altri chiedendo appunto regole molto rigide, tra cui bail-in. Non si fa così, perché sennò torniamo sempre a chi dà lezioni ma poi in casa propria trucca, non i motori in questo caso. Visto che parlavamo d'Italia, per quello che riguarda le immatricolazioni auto, l'attesa è di una ripresa a due cifre del mercato dell'auto italiano. Tra l'altro la componente più forte nella produzione industriale in questo momento è il settore auto. Nel giorno in cui, se parliamo di trasporti, come abbiamo ricordato, si sono dimessi tutti i vertici delle Ferrovie dello Stato, tutto il Consiglio di Amministrazione, e Padoan ha detto che presto arriverà la nomina dei manager per la privatizzazione. Invece in tema di legge finanziaria, di legge di stabilità, oggi il numero uno dell'INPS, Tito Boeri, nel corso di un'audizione alla Camera, ha spiegato che è assolutamente grave aver tagliato la spesa per l'informatizzazione della pubblica amministrazione del 50%, da 350 milioni di spesa corrente. Dice sostanzialmente Boeri, 198 sono assolutamente incomprimibili, è una decisione grave perché sono spese necessarie al funzionamento del sistema INPS e a fornire i servizi dell'istituto. Se noi dovessimo davvero ridurre del 50% le nostre spese informatiche, noi dovremmo tagliare spese come quelle che sono legate al rinnovo fisiologico dell'hardware, alla manutenzione dell'hardware, all'hardware che è in service, alle licenze d'uso, alla manutenzione delle licenze di software, alla connettività della fonia, alla sicurezza, e questo praticamente ci impedirebbe di accendere, diciamo, le macchinari e procedere nell'erogazione dei nostri servizi. Quindi è un intervento draconiano che ci impedirebbe di svolgere le nostre funzioni. Non voglio polemizzare ogni giorno col governo, però è inutile continuare a dire che bisogna digitalizzare la pubblica amministrazione, digitalizzare il paese, se poi alla resa dei conti scopriamo che si rischia il taglio del 50% nell'investimento in informatizzazione dell'INPS. E guardate che negli altri paesi europei, quelli più evoluti, quando tu lasci il paese, lo dico per esperienza diretta, i tuoi contributi versati ti vengono ridati nell'arco di 2-3 mesi. Okay, perché tu hai verso dei contributi che poi non userai per la pensione, lasci, nel caso mio fu la Gran Bretagna, torni in Italia, dopo pochi mesi, grazie all'informatizzazione della pubblica amministrazione, e parlo di 20 anni fa, dopo pochi mesi ti arrivano sul conto corrente i contributi che hai versati. Funziona così l'INPS da noi? Non mi sembra. Devi informatizzarla. Allora è inutile fare la narrazione sul paese che bisogna informatizzare, digitalizzare, se poi si tagliano i soldi magari per inventarsi il bonus consumi culturali dei neo diciottenni o altre amenità. Sapete dove vado a battere, l'intera operazione sull'IMU è assolutamente sbagliata. Potevi mettere una franchigia a 500 euro e poi gli altri, se hanno case di pregio, l'IMU se la pagano. Però insomma, se poi si arriva a grattare il fondo, per cui di rischi e denuncia Boeri di tagliare del 50% le spese che servono a informatizzare questa benedetta pubblica amministrazione che ancora funziona in maniera delle volte preistorica, non raccontiamoci poi la balla del paese che va digitalizzato e cambiato e modificato. Allora, parliamo di lavoro, visto che siamo al forum agenti.it. Prima di tutto il lavoro dei giovani, 721.000 le assunzioni previste quest'anno dalle aziende, è il rapporto Union Camere di ogni anno, quindi sono tutte le camere di commercio italiane che con un certo grado di affidabilità vanno a verificare le richieste arrivate. Dicevo, 721.000 le assunzioni previste quest'anno, 76.000 i profili però introvabili. Nel rapporto Excelsior sarà presentato ufficialmente domani a Verona al Job Orienta, che è il salone nazionale sull'orientamento dei giovani in corso appunto alla Fiera di Verona. Il numero di introvabili come profili è anche in aumento nei giovani, lo dico, incredibile, col 40% di disoccupazione, anche se siamo lontani, diciamo, da una ripresa forte. Questo segnala però una certa ripresa del mercato del lavoro. La cosa interessante, ripeto, che sono passati di moda i pasticceri e i cuochi, non perché siano passati di moda i programmi televisivi, ma perché a forza di programmi televisivi c'è una marea di giovani che si è iscritta alle scuole alberghiere e vuole fare il cuoco e il pasticcere. Benissimo, serve anche questo a un paese, servono anche le professioni legate alle nuove tecnologie, come ha spiegato alla nostra Maria Piera Ceci Domenico Mauriello, che ha coordinato la ricerca per Union Camere. Fra i laureati, appunto, alcuni indirizzi specifici di ingegneria sono quelli oggi più richiesti e per i quali c'è un disallineamento rispetto ad un'offerta che molto spesso non riesce ad essere guidata verso la domanda espressa dalle imprese, per un orientamento non sempre efficace da parte non tanto delle scuole quanto soprattutto delle famiglie. E fra i diplomati aumentano le difficoltà per quelli ad indirizzo delle telecomunicazioni, indirizzo informatico, quello grafico. Una novità di quest'anno è che dalla top 10 dei ricercati, così potremmo dire, most wanted, sono usciti cuochi, pasticceri ed infermieri. Cosa è successo? È successo che l'opinione pubblica ha spinto tanto nelle iscrizioni ad alcuni indirizzi, stiamo parlando soprattutto di quelli dell'alberghiero per le qualifiche professionali, che ormai il mercato si sta iniziando a saturarsi. Masterchef ha fatto bene. Esatto. Se ci fossero dei Masterchef anche in altri ambiti, stiamo parlando soprattutto di quelli legati ai diplomi tecnici e professionali, molto probabilmente alcune di queste difficoltà di reperimento di cui parlano le imprese potrebbero essere limitate. Adesso parlerò anche con chi rappresenta gli agenti, perché fosse un talent show anche sugli agenti, non so, si può immaginare se questo è poi l'effetto. Attenzione a non confondere, lo dico agli ascoltatori che scrivono, le mode. Criticammo a suo tempo molto la moda di iscrivere i figli a scienze della comunicazione, lo dicevamo perché si andava a profilare un perfetto disoccupato in molti casi, con invece gli istituti alberghieri. Perché lo dico? Perché al di là di Masterchef e tutte queste simpaticissime concorsi televisivi, il settore del turismo, il settore alberghiero, il settore della ristorazione è un settore che sta andando bene in questo paese, anche i dati ultimi lo dimostrano, il Made in Italy va fortissimo all'estero, per cui non c'è solo il mercato interno, ci sono anche i mercati esteri, quindi quella è una scelta al di là di Masterchef seria che cerca di portare un lavoro. Quella di scienze della comunicazione era un modo per formare dei laureati, benissimo, ma con grosse difficoltà a cercare un posto di lavoro. So già che adesso mi scriveranno i docenti di scienze della comunicazione, ma me ne frega relativamente poco. Invece vorrei farvi ascoltare, dopo il meteo e la pubblicità, il botta e risposta tra Confindustria e Ministero sull'apprendistato, ma vorrei anche ringraziare chi tra virgolette ci ospita, nel senso che fa gli onori di casa, Davide Ricci, come vi chiamate adesso, Forum Agenti 321? Sì, buonasera anche a tutti. Buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Sì, Forum Agenti di Agent 321, appunto, che raggruppa tutti gli agenti di commercio e tutto quello che lavoro per agenti di commercio. Ma perché 3210? Beh, 3210 esattamente, è un po' un count, una cosa che serviva, e quindi ci sono gli agenti, anche perché il, diciamo, agent in tutte le lingue, essendo un progetto comunque mondiale, è il suffisso di agenti in Italia, di agent in Francia, di quant'altro in tutte le lingue. E fare un talent show anche voi con gli agenti? Sarebbe magnifico, abbiamo un progetto per questa cosa qua. Anche voi col talent? Beh, sarebbe bello farlo su Radio 24, il primo talent per agenti di commercio. No, è una battuta naturalmente, insomma, già quello che è. Sì, sarebbe, perché no? Ma un talent magari reale, perché poi alla fine i talent gonfiano molto le cose e poi si crea quello che abbiamo visto oggi, quindi forse non sarebbe così, così giusto, insomma. Bisognerebbe trovare lavoro vero. Tutti vogliono fare il talent, mancano il talent dei politici, però lì magari fanno le primarie, e dei giornalisti, lì mi sembra che i talent abbiano lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso sulle condizioni dell'editoria italiana. Allora, meteo, pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, ci sentiamo fra 4 minuti. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dalla Fiera di Milano City, dove si sta tenendo il forum agenti 321. Prima di arrivare ai profili di questa prima giornata richiesti, e se il mercato del lavoro anche nel mondo degli agenti si stia o no un po' muovendo, e restando in tema di mercato del lavoro, nel rapporto Excelsior veniva fatto notare, lo ricordavamo prima, come le imprese chiedono professioni legate alle nuove tecnologie, ma anche giovani che abbiano maturato un minimo di esperienza nelle imprese attraverso gli stage. A questo proposito, la riforma cosiddetta buona scuola dovrebbe aiutare, perché introduce gli stage obbligatori per tutti i ragazzi dell'ultimo triennio delle superiori, licei compresi. Su questo però qualche criticità la esprime e la sottolinea soprattutto Claudio Gentili, direttore di Confindustria per l'Education, sempre al microfono della nostra Maria Piera Ceci. Le nostre imprese stanno per ricevere l'invasione pacifica di 1,5 milioni di immigrati studenteschi verso le spiagge delle nostre imprese. Il risultato della norma che prevede obbligatoriamente per 1,5 milioni di ragazzi, 500,000 delle terze superiori, 500,000 delle quarte, 500,000 delle quinte, 400 ore per gli studi tecnici e 200 ore di alternanza scuola-lavoro per i licei. Le aziende secondo lei sono pronte a questa invasione pacifica? Le aziende italiane non sono pronte per due motivi. Quando in Germania ci fu un provvedimento analogo, il pacchetto Schröder prevedeva che le aziende che ospitano studenti pagano meno tasse delle aziende che non ospitano studenti, cioè in Germania accanto al progetto formativo si è immaginato una sorta di incentivazione per le imprese. Da noi invece si fanno le nozze con i fichi secchi, cioè si prevede 100 milioni per le scuole che fanno alternanza, ma non si prevede nulla dal punto di vista dell'incentivazione per le imprese. Ecco, a questo risponde però, e ha risposto, raggiunto sempre dalla nostra Maria Piera Ceci, il sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi, il quale dice: beh, le imprese non possono solo lamentarsi, stiamo pensando a una decontribuzione. Il riferimento infatti di Gentili è a quanto avviene in altri paesi, in Germania, dove sì, tu prendi lo stagista, ma visto che poi questo ha un costo, devi formarlo, farlo seguire, il vantaggio è almeno una decontribuzione. Comunque sentiamo Toccafondi. Noi stiamo dando una mano, però, come dire, non ci si può solo lamentare da parte delle aziende che non ci sono lavoratori pronti per essere qualificati, e poi quando il governo con tanta difficoltà mette anche le risorse, perché sull'alternanza scuola-lavoro la buona scuola parla chiaro, 100 milioni di euro all'anno dal 2006. E questi serviranno per le scuole, però, per le scuole, non per le aziende. Per le scuole, per formare ragazzi sui corsi, per esempio, di sicurezza sui luoghi di lavoro, per pagare le assicurazioni, per la mobilità degli studenti, per formare il personale che seguirà i ragazzi in alternanza. Stiamo anche lavorando come governo e con altri ministeri anche a comprendere come è possibile aiutare le aziende con una decontribuzione. Certo è che la politica degli incentivi rischia poi di essere un'arma a doppio taglio per i ragazzi in alternanza, però la stiamo studiando, figuriamoci. Ma è utile l'alternanza per i ragazzi, è utile anche per il sistema produttivo italiano. Se i numeri di Unioncamere sono vere, anche le imprese devono comprendere che devono dare una mano non solo e soltanto ai ragazzi, ma a loro stesse, facendo il lavoro di darci una mano in alternanza. Comunque agli sgravi ci state in qualche modo pensando? Sì, come governo sì, con il Ministero del Lavoro. Il tema dell'apprendistato, che è un'alternanza diciamo così più pesante, è quasi realtà, l'abbiamo fatto insieme al Ministero del Lavoro e prevede assolutamente incentivi e defiscalizzazioni per le aziende, quindi è un tema, non può però essere l'unico tema. Allora, vediamo di capire se anche tra il mondo degli agenti si muove qualcosa. Leggo tre messaggi, uno perché non l'ho capito, mi scrive un ascoltatore che si firma direttore di banca, immagino che possa avercela con me per alcuni commenti, però dice, non ha detto quello che lei dice, era riferito a Boeri, era riferito a Renzi, non lo so, e la smetta di fare politica. Magari se fare politica e esprimere le proprie idee, è chiaro che non è che posso, se lei vuole una velina che lanci gli audio, deve cercarsi una velina e magari avrà più successo di me. I commenti non sono politica, sono commenti critici, pro governo, contro governo, non me ne frega nulla. Invece per quello che riguarda un altro ascoltatore, scrive che ha una catena di sushi bar a Milano, non riesce a trovare qualcuno minimamente formato da assumere, e io non so, appena troveranno la velina verrò io al sushi bar, questo posso proporglielo. E invece scrive un agente di commercio, dice, il nostro lavoro è morto perché le tassazioni, la mancanza di tutele alle quali siamo soggetti, stanno ammazzando una professione fondamentale per l'industria. Allora partiamo anche da qui, il talent abbiamo capito che volete farlo, Davide Ricci, ma la prima giornata com'è andata? C'è un po' di risveglio della domanda di lavoro e poi se vogliamo rispondere anche a questo ascoltatore. Sì, allora assolutamente secondo noi sta andando molto bene, insomma parliamo più di 400 aziende presenti, adesso quel numero finale ci sarà comunicato, però alle 17 erano quasi 1000 gli agenti di commercio che sono venuti, tutti agenti che cercavano lavoro, che comunque non è un cercare, non è che sono disoccupati, questo è il concetto importante da spiegare, perché magari essendo plurimandatari hanno già delle aziende che rappresentano e ne vogliono affiancare altre per ottimizzare tutto anche un discorso di costi, quindi se io vendo matite magari vengo qui a cercare un'azienda che produca quaderni e poi io gli vado a portare sia le matite che i quaderni, quindi ottimizzo anche i costi. Quindi sta andando molto bene, io sono molto soddisfatto, poi vedo le corsie, ci sono colloqui di lavoro e tutti stanno facendo colloqui, quindi questo mi piace. Ma meglio di quando ci vedemmo a Napoli l'ultima volta? Diciamo che Milano è molto più recettiva. No, al di là di Milano-Napoli, okay. La domanda di lavoro si sta muovendo oppure no? Sì, rispetto a quello che è stata l'edizione di Napoli assolutamente sì, anche perché gli agenti di commercio, quindi l'intermediario commerciale, in realtà soffre semplicemente quando le aziende chiudono, perché poi comunque non c'è nulla da vendere, ma c'è sempre qualcosa da vendere. Naturalmente le condizioni poi sono diverse, in un'economia florida ci sono delle condizioni magari migliori e adesso anche le aziende stanno più attente a quello che vanno a offrire alla persona. Quindi... riguarda anche i capi area, mi chiedono, questa manifestazione? Allora, in realtà sì, perché la parola agente di commercio non sono semplicemente quelli che vengono a forum, quelli che sono iscritti alla Camera di Commercio come agenti di commercio, ma sono anche magari i capi area, i procacciatori. Il profilo di chi è ricercato lo decide l'azienda, quindi l'azienda viene qui e cerca un capo. Dalle aziende, non chi è ricercato dalle aziende, non assoluto ricercato, questo è un periodo. Per quel profilo lì lo decide la magistratura. Però certo. Dopo il traffico, sì. Invece, mi dica, perché molti me lo chiedono, allora la ricerca di Unioncamere che citavo prima, sì. Si chiama Excelsior, lo dico agli ascoltatori, e la trovate sul sito di Unioncamere, ha tutta la graduatoria dei lavori più richiesti con i casi. Dopo il traffico, mi dica lei, insomma, le 4-5 profili più richiesti e se è vero che comunque stanno massacrando il vostro lavoro con assenza di tutele e tassazione. 349-238-6666 per WhatsApp, SMS, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento Focus Economia. In questa prima giornata è il tema della tassazione delle tutele. Allora, professioni più richieste naturalmente sono venditori, questo è il profilo normale. Se vogliamo andare a fare, a dire qualcosa sui più richiesti o meno richiesti, la fanno da padroni settori, quindi agenti di commercio in determinati settori, quindi parliamo l'alimentare, tantissima Horeca, quindi bar, ristoranti, alberghi, settori in cui si seguono, diciamo, si cercano molte figure e anche edilizia in realtà, quindi edilizia, fornitori industriali, quindi questo è comunque un segnale magari che qualcosa sta cambiando. È un settore rimasto ancora escluso da questo poco di ripresa che vediamo, però sì. Voi ci dite che qualcosa si sta muovendo pure lì. Diciamo che gli agenti di commercio hanno un vantaggio, che si accorgono del cambiamento, di come va l'economia un pochino prima, perché fanno gli ordini che poi diventeranno delle fatture. In realtà tutte le rilevazioni sono fatte sui fatturati delle aziende, quindi le aziende comunicano i dati, c'è chi li rileva, ma nessuno in linea di massima fa un monitoraggio delle commesse, quindi le commesse che magari diventeranno fatturato anche il prossimo anno, non è detto che tutto venga fatturato, che tutti vendano delle mozzarelle il giorno stesso, quindi questo è un po' l'idea, quindi magari una ricerca in edilizia vuol dire che l'edilizia magari in questo momento sta credendo nel fatto che possa cambiare qualcosa, quindi è un po' il sentiment delle aziende. Poi domani con Deborah Rosciani farete un'analisi molto più dettagliata. Un'ultima battuta sulla tassazione e le tutele. Allora, tassazione e tutele, questa è la mia opinione personale naturalmente, e credo che gli agenti siano degli imprenditori e quindi come tali seguono la linea italiana. Io non credo che debbano essere tutti per forza tutelati o che debbano essere equiparati a dei dipendenti, cioè sono degli imprenditori e come tali hanno secondo me il rischio del mercato. Sono personaggi che sicuramente possono anche guadagnare molto, quindi debbono secondo me affrontare il mercato come se fosse una piccola impresa. Questo è importante, è una cosa da ricordare. Quindi più partite IVA che non dipendenti, come sono assolutamente partite IVA. Grazie, domani ripeto con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone a cuore denari l'analisi anche di quanto sta capitando e maggior dettaglio nelle professioni più richieste. Andiamo invece adesso alla borsa. Mentre non festeggia il tacchino in America, perché oggi è giorno del ringraziamento e c'è questa battuta americana che anche noi ogni tanto adottiamo, è difficile che il tacchino anticipi il Thanksgiving, non il Natale, ma il Thanksgiving. Detto questo, Parigi più 1%, Francoforte più 1,35%, Londra più 0,88%, Milano più 1,04%, ST Microelectronics più 5,40%, CNH più 5,20%, Boots Unicem più 3, Moncler più 3%, Tenaris più 2,90%, Fiat Chrysler più 2,30%, Saipem più 2,20%, Telecom più 2,1%, Mediaset più 2%, l'1,80% lo guadagna Exor e Prismian, perde Campari l'1%, Tod's meno 0,20%. Bene tutto il settore auto, anche alla luce dei dati che ricordavo del centro studi promotore. Leonora Micheli, buonasera, Radio Corri sulle 24 ore. Buonasera. ST Microelectronics. Sì, ST oggi ha brillato, è salita di oltre il 5%, ma perché a Francoforte la concorrente Infineon è salita addirittura di oltre il 13%. La società non solo ha pubblicato conti trimestrali che sono piaciuti molto al mercato e sono risultati superiori alle stime del mercato, ma soprattutto ha rivisto al rialzo le stime per il 2016. Alla luce degli ottimi conti del terzo trimestre, i manager dell'azienda prevedono a questo punto che il prossimo anno i ricavi cresceranno del 13% e ciò ha dato il là all'acquisto su tutto il comparto dei chips, ST compresa. Ancora per quello che riguarda invece altri titoli, Finmeccanica ha un po' ritracciato. Possiamo, Ha ritracciato, prego. Però ha ricordato che dalle stragi, diciamo, del 13 novembre a ieri, i titoli avevano guadagnato oltre il 10%. E del resto è brutto da dirsi, ma la società comunque è una delle poche che in questo momento potrebbe beneficiare delle tensioni e della lotta al terrorismo, visto che anche in Italia Matteo Renzi, il premier, ha annunciato 1 miliardo in più per la sicurezza, ma anche gli altri stati spenderanno sicuramente di più sia per la sicurezza sia per le spese militari. Sì. No, ma non c'è niente di strano, insomma, se ti occupi del comparto difesa. Resta con noi Eleonora Micheli, dopo il GR24 ancora due titoli, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni dalla Fiera di Milano City, dove si sta tenendo la prima giornata dei lavori del forum degli agenti.it, ma soprattutto Agent 321. Ma in realtà volevo concludere l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli. Eravamo al di là di ST Microelectronics e del settore auto e di Finmeccanica, dove oggi si è visto qualche realizzo, anche se alla fin fine perde lo 0,07%. Fuori dal FTSE MIB, quindi dai titoli principali, Eleonora, oggi si sono mosse molto alcuni titoli. In un caso Meta-Crimon c'è anche una notizia di mercato, più 4%, e poi c'è il gruppo RCS. Esatto, Mertecnimont è balzata in avanti sulla prospettiva di un contratto in Oman. Lo Stato realizzerà infatti lavori entro il 2019 per 4,5 miliardi di dollari, e quindi questo ovviamente ha dato verve alle azioni. Poi le RCS rimangono ovviamente sempre sotto i riflettori, nell'attesa anche del piano industriale che deve presentare la società. Oggi comunque sono salite dell'1,9%, anche perché dalle pagine del Sole 24 Ore l'imprenditore Urbano Cairo, che detiene una quota di oltre il 4%, pari al 4,6% di RCS, ha confermato di credere nel proprio investimento malgrado i magri risultati. L'investimento, secondo Urbano Cairo, ha solo bisogno di tempo, tant'è che l'ha paragonato un po' all'investimento che ha fatto nella squadra del Torino, dove tutti lo sconsigliavano, ma alla fine invece inizia a dare risultati sia sportivi sia economici. Gli altri titoli invece, in assoluto i migliori e i peggiori, si chiamano Innovatech più 13,25, Mondo TV France più 11,40, e poi abbiamo già detto di ST Microelectronics e di CNH Industrial e appunto di Meta-Crimont. Fronte opposto vede invece cedere Meteoros Capital il 9%, Novarail il 6%, OVS il 3,22%. Grazie intanto Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi, prima di arrivare alle tensioni Russia-Turchia, come annunciavo, vorremmo raccontare una buona notizia, visto che un tema che seguiamo fin dall'inizio, ossia le agitazioni e le manifestazioni degli allevatori italiani contro le multinazionali, nello specifico Lactalis, per i prezzi che imponevano al latte prodotto alla stalla sotto il prezzo di costo, si è trovata al Ministero delle Politiche Agricole, si è trovato un accordo, siglato un accordo con le organizzazioni agricole, con le cooperative, con l'industria e con la grande distribuzione. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano. Allora, questa l'abbiamo rieditata un po' dalla vecchia canzone, forse era Morricone o Nino Rota. era un film di Fellini, bevete più latte, forse era Rota, ma la cosa importante è quanto hanno ottenuto i nostri allevatori. Matteo Lasagna, presidente Confagricoltura Lombardia, una delle associazioni più schierate, visto che il 50% degli allevatori italiani risiede in Lombardia. Buonasera di nuovo. Buonasera dottor Barisoni, vedo con piacere che avete già cominciato le campagne di sensibilizzazione sul latte italiano, mi fa piacere. No, no, no, no, non ci faccia affidamento, era solo uno stacco perché stiamo raccontando una notizia positiva. Allora, voi avevate proteste in continuazione per un prezzo del latte fissato a 33 centesimi al litro. Se ho ben capito, con l'accordo di oggi viene fatto salire di 3 centesimi, più il governo si è impegnato a girare agli allevatori 25 milioni di euro di fondi europei con un impatto di un altro centesimo, quindi arriverete a 37 centesimi al litro, ho capito bene? Sì, ha capito bene. Oggi è stata una giornata che è stata segnata da una moderata soddisfazione, se posso commentare l'esito del raggiungimento dell'accordo a sostegno della filiera lattiero-caseari. Le dico che noi avevamo come primo obiettivo quello di aumentare quelli che erano i prezzi più bassi retribuiti ai nostri allevatori, nella figura di appunto della multinazionale Lactalis, che si è impegnata per tre mesi, quindi il mese di dicembre, il mese di gennaio e il mese di febbraio, a innalzare di 2,1 centesimi quello che era il riferimento su ottobre e novembre, ovvero da 33,9 si passa a 36 centesimi. L'altra grande soddisfazione per questo accordo ponte è il Ministero dell'Agricoltura, che ha sbloccato gli stanziamenti dati dalla Comunità Europea per quanto riguardava e quanto riguarda la crisi del settore lattiero-caseario nella misura di 25 milioni, quindi spalmati sui tre mesi sostanzialmente sono un altro centesimo, il che ci fa arrivare ai 37 centesimi. E quindi che voi consideravate il livello minimo per riuscire a produrre il latte, perché esatto, si andava anche sotto il costo di produzione. Allora, noi abbiamo fatto un calcolo, diciamo, un po' a spanne, però dovrebbero essere in tutto 340 milioni tra effetti diretti e indiretti, se esteso su base annua questo accordo. Esatto. Ora, voi temete che fra tre mesi possa essere messo in discussione, o temete di più che non tutti i soggetti industriali si allineino? No, la moderata soddisfazione che le dicevo all'inizio è appunto l'inizio di un lavoro intenso che già da domani mattina ci vedrà all'opera in un dialogo che proseguirà con anche la grande distribuzione, perché oggi l'aspetto assolutamente positivo è che la sottoscrizione dell'accordo anche da parte della grande distribuzione per la prima volta si assume compiti specifici di impegni di promozione e di valorizzazione del latte italiano e dei suoi derivati all'interno del sistema di distribuzione. Quindi è un work in progress, se mi passa la definizione, nel senso che da domani saremo sicuramente a lavorare per quello che potrà essere il prezzo del 2016, partendo ovviamente dal mese di marzo. Ci rende questa situazione ci rende anche una sostanziale tranquillità, perché non è coinvolta soltanto la Lombardia in questo accordo. L'aumento di 2,1 centesimi fatto dalla multinazionale Lactalis andrà a colpire i listini di Lactalis non solo e soltanto in Lombardia, ma anche in Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna e in Friuli Venezia Giulia. Questo ci dà la possibilità di lavorare e di continuare questo dialogo che alla fine non si è mai interrotto, ma è sempre continuato, anche su posizioni dure o di confronto sincero con non solo la multinazionale Lactalis, ma con tutta la rappresentanza di Essolar. Senta, Lasagna, un'ultima domanda, perché ce la pongono molti ascoltatori, ma perché non fate non si crea una società dove fa una cooperativa, non so quale sia la forma, dove fare conferire tutto il latte italiano in modo che poi questo soggetto forte abbia anche più potere contrattuale con le multinazionali, con chi poi il latte deve vendere sugli scaffali? Certo. Certo, guardi, questo sta già accadendo tramite la costituzione delle organizzazioni di prodotto che sono state riconosciute da pochi giorni a livello regionale e anche a livello nazionale in una organizzazione di un'associazione di organizzazioni di prodotto, per cui stiamo cercando con molta fatica di poter far confluire verso questa AOP, questo è il termine corretto, la maggior parte dei nostri produttori per avere un potere contrattuale molto più forte rispetto a quella frammentazione che oggi vediamo sul mercato. Allora, grazie al Presidente Confagricoltura Lombardia, un bocca al lupo a tutti gli agricoltori, agli allevatori, in questo caso onesti, così come abbiamo criticato aspramente gli splafonatori e quindi quelli che non rispettavano la legge a danno dei concorrenti e a danno poi del costo complessivo che ha avuto questo per il Paese. Difendiamo gli allevatori italiani. Attenzione, gli allevamenti sono in primo luogo un settore produttivo, ci mancherebbe, sono anche tutela del territorio, visto che un terzo, se non ricordo male, si trova in località montane e quindi serve anche a preservare il territorio, non è solo un ragionamento meramente economico, anche se da lì giustamente partiamo. Grazie al Presidente Lasagna, un'informazione di servizio. La puntata all'approfondimento su Deutsche Bank, Commerzbank, le banche tedesche, il bail-in, l'atteggiamento della Germania, lo facciamo domani perché oggi il tempo è terminato. Chiarirò anche cosa intendevo dire sul trattamento che ha ricevuto Deutsche Bank e quello che ha ricevuto Commerzbank, visto che alcuni me lo chiedono, ma il tema di fondo è il tema con cui abbiamo aperto questa settimana. Il salvataggio di quattro banche italiane è stato un test, una cavia per vedere quello che capiterà dal 1° gennaio, anche se non è stato fatto seguendo tutti i dettati di quello che sarà il bail-in dal 1° gennaio. Molti fanno notare che l'Italia avrebbe dovuto alzare un po' più la voce e chiedere non solo di non fare la cavia, ma anche che tutte le banche dell'area euro vengano valutate con la stessa severità con cui si valutano le banche italiane. Abbiate pazienza, domani il tema, adesso c'è il traffico e poi le tensioni Turchia-Russia. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Allora, la stima di quanto potrebbero costare le tensioni tra Russia e Turchia. Oggi su Sole 24 Ore era presente un primo dato, cioè l'interscambio commerciale tra i due paesi, la parte che è anche messa più a rischio, vale circa 30 miliardi di dollari l'anno, tutto l'interscambio tra Russia e Turchia. Sappiamo che la Turchia, lo diciamo anche ieri, importa il 60% del suo gas dalla Russia, preoccupate anche alcune aziende italiane. Il mercato turco vale per il Made in Italy 10 miliardi di euro l'anno e quasi 300 aziende hanno siti produttivi in Turchia. Sentiamo intanto il commento su questo all'interno dei 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che trasmettiamo anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Mentre la classe politica europea, gli Stati Uniti, la Russia e tutte le parti coinvolte in questa vicenda stanno cercando di trovare una linea comune per dare una risposta alla sfida dei terroristi dell'ISIS e degli scenari di Siria, beh, insomma, i primi venti di guerra sul fronte commerciale hanno già cominciato a soffiare forte. Come molti temevano, la Russia ha cominciato a colpire la Turchia con delle sanzioni commerciali, così come tra l'altro era avvenuto nei confronti della stessa Russia quando esplose l'anno scorso la tensione in Ucraina. Il commercio, come si sa, è il primo colpo di cannone in quelle che sono le relazioni deteriorate dei paesi europei, americani o anche dell'est o dell'Asia o della Russia. Che cosa è successo in questo caso? Il primo colpo è stato sparato sui prodotti alimentari. La Russia ha sostanzialmente bloccato il 15% delle importazioni di prodotti alimentari della Turchia che, come sappiamo, nel complesso rappresentano quasi 44 miliardi di dollari di interscambio commerciale. Una cifra molto sostenuta e una cifra soprattutto che desta a nuove preoccupazioni sotto il profilo della tenuta economica europea, tant'è vero che proprio oggi anche l'Unione Europea ha lanciato un grido d'allarme sui rischi di una frenata economica imprevista in questa già debole ripresa europea. Il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza prodotta dall'Europa, l'anno prossimo dovrebbe crescere l'1,8%, beh, oggi si comincia a dire che anche questo potrebbe essere un obiettivo non raggiungibile nel caso in cui la fiducia dei consumatori, la fiducia delle imprese e gli investimenti dovessero fermarsi o cadere proprio per effetto delle incertezze legate alla guerra. Comunque sia, una cosa è chiara, questa tensione va risolta al più presto, non soltanto per il profilo commerciale ovviamente, ma soprattutto perché senza una stabilizzazione di quell'area sicuramente le tensioni sono destinate a ripetersi, se non in Siria, in altre parti del mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vorrei capire, al di là delle tensioni appunto della cronaca di oggi in cui Erdogan non ha chiesto scusa e l'accusa di Putin era stata in mattinata molto forte, le inspiegabili pugnalate alla schiena da coloro che ritenevamo partner nella lotta al terrorismo. Dottor Luca Pirazzi, partner di Advance Advisor, società di consulenza finanziaria, buonasera. Buonasera. Senta Pirazzi, voi vi attendete, abbiamo ascoltato assieme il commento di Alessandro Platerotti, ma voi vi attendete un insieme di conseguenze pesanti sul fronte economico? Alcuni hanno scritto a rischio il Turkish Stream, che è quell'oleodotto fondamentale per poi rifornire di gasdotto per rifornire di gas Turchia, Grecia, la parte sud dell'Europa che deve passare in Turchia. Altri hanno detto attenzione anche alla centrale nucleare di Akuyu, Mosca rafforza i controlli sull'import di cibo turco, hanno congelato progetti turchi per 500 milioni di euro, hanno anche fermato alcuni turisti turchi dicendo che il motivo del viaggio non era quello, ma insomma siamo ancora alle schermaglie o temete che poi il giro di vita diventi serio con la Turchia? Ma le reazioni a caldo necessariamente tengono conto dell'opinione pubblica, parliamo di due paesi e di due capi di Stato che devono rispondere a un'opinione pubblica che vede in loro dei soggetti forti, che devono dare risposte forti, devono mantenere alto il nome del loro paese, quindi sono molto condizionati sia l'uno che l'altro negli atti e nelle parole che dicono dalla pressione dell'opinione pubblica. È chiaro che a caldo le risposte sono sempre piuttosto acute, però devo dire che a mio modo di vedere Putin non ha spinto sull'acceleratore, si è fermato al minimo sindacale della risposta. Certo che la situazione è paradossale, non era mai successo che un aereo della NATO abbattesse un aereo russo in situazioni diciamo di maggiore difficoltà e di maggiore tensione di questa. Purtroppo è il risultato del fatto che in Siria ciascuno va con le proprie armi e cerca di sparare a qualcuno che è parente di qualcun altro e questo qualcun altro si irrita. Questo è quello che è successo quando i russi hanno continuato a sparare addosso ai turcomanni anziché addosso a Daesh e alla fine i turchi, dopo una serie di avvertimenti, gliene hanno dato uno molto chiaro e hanno tirato giù un Sukhov. Sì, detto questo, ci sono anche molti osservatori militari che ritengono che sia un errore anche dal punto di vista militare, cioè un aereo si abbatte quando è veramente pericoloso, non quando semplicemente va a violare il tuo spazio aereo. Ma restando a noi invece, lei ritiene, non ho capito se lei ritiene che al di là delle schermaglie per motivi anche di consenso elettorale, ho capito benissimo il ragionamento, poi gli affari in gioco siano talmente alti, talmente di medio e lungo termine che difficilmente verranno messi in discussione o si potrebbe arrivare anche a questo? Insomma, i russi di mestiere vendono gas e petrolio e se smettono di vendere gas e petrolio non so cosa facciano nella vita. I turchi a loro volta hanno nella Russia un mercato di sbocco molto importante per la loro manifattura e anche per i prodotti agricoli. Possono farsi i dispetti l'un l'altro, però alla fine devono fare anche il conto col portafoglio. I russi sono già esposti sulle sanzioni con l'Europa, non è che si può fare la guerra a tutto il mondo e sperare di esportare e di importare solo dalla Cina. Quindi io credo che ciascuno dei due contendenti dovrà cercare di difendere l'onore del paese nella misura, nella maniera in cui potrà, calmando poi le acque e cercando di riprendere a contare i fogli da mille delle esportazioni che ciascuno fa. I turchi comprano il grano in Russia, comprano il gas in Russia, i russi comprano manifattura alimentare in Turchia. Alla fine il portafoglio, mi sembra, prevarrà. Prevarrà, ma al di là degli altri aspetti che riguardano i turcomani, eccetera, non ci sono dei grandi problemi, insomma. Il conto alla fine potrebbe essere un succo abbattuto e un po' di polli turchi abbattuti dai russi, come è stato fatto adesso. No, ho capito, lei dice che alla fine prevarrà poi anche l'interesse economico nelle relazioni commerciali. Grazie, e grazie quindi anche a Luca Pirazzi, partner di Advanced Advisor. Da Sebastiano Berigioni è veramente tutto. Ringrazio anche Barbara Bianchi per l'assistenza qui in esterna, e Filippo Aureggi in regia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, c'è la poco invidiabile classifica di Focus Economia, ci sarà la startup e parleremo anche delle banche tedesche, dei due pesi, delle due misure. Radio 24, la passione si sente.